Per me è sempre un grandissimo onore quello di essere qui e di poter condividere per i prossimi 30, 35, 40, non so che minuti, quello che è il messaggio che Gesù ha messo nel mio cuore. Io sono convinta e la mia preghiera è esattamente questa, che ogni parola che noi ascolteremo oggi possa portarci insieme ad una rivelazione più profonda del sacrificio meraviglioso che Gesù Cristo ha fatto per noi. Amen? Che lo conosciamo da 20 anni, 30 anni, o che magari oggi, non lo so, forse è la prima volta che ascolti di questo Gesù che è reale, del suo nome potente. Tutti allo stesso modo abbiamo bisogno di essere continuamente trasformati dalla potenza e dalla profondità, dall'intensità del suo amore che è stato espresso all'ennesima potenza attraverso il suo sacrificio. Sì? Quindi è questo che faremo questa mattina. E faremo i compiti insieme, ok? Noi sappiamo che da un po' di tempo a questa parte, no, come chiesa insieme, abbiamo preso proprio l'impegno di ritagliare un po' di tempo quotidianamente, tutti i giorni, per fare che cosa? Per leggere la parola. Non per leggere 1000 capitoli al giorno, ma per leggerne solo uno, ma per leggerlo. E tutti quanti sappiamo che questa è una cosa vitale, è un'abitudine vitale per ognuno di noi. Allora forse da quando abbiamo incominciato, non so, l'abitudine di leggere la Bibbia per te era già abbastanza consolidata ed è bellissimo, forse per alcuni lo sta diventando, per altri ancora è una sudata, cioè è un continuo combattimento. È normale, ci sta, io però ti voglio dire che a prescindere da che gruppo tu faccia parte, no? Che categoria di persone tu faccia parte, io ti incoraggio a non stancarti, va bene? Non ti scoraggiare, che tu non abbia mai saltato nessun giorno da quando abbiamo incominciato. Allora io ti dico, bravissimo, dimmi qual è il tuo segreto. Se invece ne hai saltati uno, due, una settimana, due settimane, allora io ti dico, non stancarti, va bene? Non ti scoraggiare, perché ogni giorno è un'opportunità per fare meglio, sì? E oggi, che leggeremo insieme, no, il capitolo del giorno, che è il capitolo numero 15, perché ieri abbiamo letto il 14, però mo abbiamo detto che hai saltato, non ti sentire in colpa, è vero. Leggeremo il capitolo 15 insieme, quindi partiamo avvantaggiati, no? Se da oggi vuoi iniziare seriamente a leggere la Bibbia ogni giorno, oggi parti avvantaggiato, perché il primo capitolo lo leggiamo insieme. Siete contenti? Benissimo. Un po' più di entusiasmo all'inizio, però nel mezzo del messaggio un po' più di entusiasmo. E quindi sì, mi piacerebbe con voi leggerlo tutto il capitolo, però ci sono 41 versetti e quindi se vogliamo parlare e commentare e applicare tutti questi 41 versetti, io avrei bisogno, non lo so, di questa domenica, della prossima ancora. E questo è un messaggio, non lo so, per il pastore, per Luciano, se me lo volete dare queste domeniche io me le prendo, tanto lo studio sta fatto, però oggi leggeremo la prima parte, va bene, di un capitolo che è così ricco ed è così fondamentale. Perché questo capitolo è così importante? Perché in questo capitolo si è definito, si è proprio espresso e verbalizzato il principio dottrinale più importante sul quale è fondata tutta la nostra fede cristiana. Se tu e io siamo qui oggi è grazie a quello che è successo nel capitolo 15. E se le cose fossero andate leggermente diversamente in questo capitolo, io penso che oggi molto probabilmente non saremmo qui. Oppure se fossimo qui, il nostro incontro sarebbe molto diverso, voi maschietti sareste molto diversi e i canti che avremmo cantato sarebbero molto, molto diversi. Vi ho incuriosito un po'? Bene, quindi non perdiamo tempo e mettiamoci subito a studiare insieme. Questo capitolo è particolare, bello, perché si apre con una lite. Si apre perché le persone stanno a fare discussione. Ma come, Noemi? Cioè, le persone della Bibbia facevano discussione, litigavano. Non erano tutti belli, santi, con l'aureola in testa, che andavano sempre d'amore e d'accordo. Leggi il capitolo 15 e capisci subito che no, non era il caso. Quelle sono i personaggi delle fiabe. Ma la Bibbia raccoglie storie di persone vere, di persone che, ascoltatemi bene, erano molto diverse tra di loro, caratteri diversi, mentalità diverse, background diversi, ma erano uniti dall'amore di Dio. Chi ci ricorda? Noi. Noi siamo così. E qui in questo capitolo, come nel resto della Bibbia, vediamo persone che sono diverse, ma unite in virtù del sacrificio che Gesù aveva fatto per loro. E questa unità doveva essere necessariamente preservata, doveva essere protetta, perché era costantemente sotto attacco, e doveva essere curata. E nel processo di questa cura, di questa protezione, qualche volta ci stava la discussione, va bene? Ci stava il confronto animato, come la mette proprio la parola di Dio, questa vivace discussione. Non ci dà tanti dettagli, io li avrei voluti. Volevo vedere Pietro, insomma, come si comportava lì. Però vivace discussione ci fa capire che gli animi erano abbastanza accesi. E quindi questo ci fa capire che litigare è normale. Litigare alle volte è anche necessario, ma bisogna imparare a farlo bene. E questo è un altro messaggio per la quarta settimana. Qual è stato? Vediamo un po', qual è stato il motivo? No, di questa animata, di questa vivace discussione. Bene, dietro questa lite c'era una domanda molto, molto importante, c'era una questione di fondamentale. E questa domanda era la seguente: che cosa distingue un credente da un non credente? Questa domanda era questa: ma io, per essere salvato, devo fare qualche cosa? Come io posso essere salvato? Come posso essere salvato da un destino di dannazione eterna, di separazione eterna da Dio il mio creatore? E come posso invece abbracciare un destino di comunione perfetta con Dio per l'eternità, che parte però da oggi su questa terra? Come si può vivere questo? Era una questione ragguardevole, era una questione proprio seria dalla quale dipendeva, e Chiesa cara, dipende tutt'oggi il nostro rapporto con Dio, dipende il nostro modo di vivere la vita con Gesù, dipende anche il nostro rapporto con l'altro e dipende anche il come condividiamo il Vangelo, il come presentiamo Gesù, che spesso sembra più una sentenza a vita piuttosto che la notizia più bella che mai un uomo potrebbe ricevere. Dipende dalla risposta che diamo a questa domanda. Ed è una questione ancora rilevante oggi, perché teoricamente tutti quanti noi lo sappiamo. Se hai fatto il percorso 1, poi lo sai particolarmente bene, te lo voglio dire questo. Tutti quanti noi lo sappiamo che siamo salvati per grazia. Va bene? Tutti quanti sappiamo che per essere salvati non c'è un prezzo da pagare, perché quel prezzo l'ha pagato Gesù sulla croce. Quindi sappiamo che è per grazia attraverso la fede, giusto? Però praticamente, in fondo, qualche volta il pensiero che ci porta, insomma, a pensare, però mica è tanto giusto sto fatto. Quando pensiamo, non lo so, pensiamo a un uomo o una donna che per anni ha abusato dei suoi figli. Pensiamo a quei mafiosi che per anni hanno seminato ingiustizia e terrore e sofferenza. Pensiamo a questi talebani che stanno combinando il macello in Afghanistan e poi di riflesso anche su tutte le persone che sono influenzate da questo. Quando pensiamo a queste persone, non lo so voi, però io onestamente sotto sotto penso, però non è mica giusto che basta che facciano una preghiera e da un momento all'altro tutti i loro peccati sono perdonati. Basta che sul letto di morte facciano mezza preghiera e si troveranno con me in paradiso per tutta l'eternità. Con me, che sono 35 anni che seguo la Chiesa. Sono 35 anni che leggo la Bibbia e che prego. Non solo la leggo, la insegno pure. Capite? Vi è mai successo? È come se ad un certo punto la grazia e la giustizia, invece di essere un binomio, di andare mano a mano, di essere uno parte dell'altro, si siano separati, li percepiamo come due cose a sé stanti, come se uno dovesse escludere l'altro, e abbiamo questa difficoltà sotto sotto, non lo ammetteremmo mai. Cioè, io lo so che stai pensando, ma chi ha messo a predicare il pastore? Lo so, ma sotto sotto io sono certa che almeno una volta nella vita questo pensiero l'abbiamo fatto. E quindi abbiamo difficoltà nel ricevere gratis il dono della salvezza eterna per noi, e in modo particolare anche quando vediamo l'altro. E la stessa difficoltà, Chiesa, ce l'avevano questi giudei. Uguale. Questi giudei di cui leggeremo nel capitolo 15 avevano lo stesso tipo di, sentivano lo stesso tipo di tensione, ok? Quando si parlava di questi nuovi convertiti. Vediamo un po', leggiamo insieme. Il versetto 1, lo possiamo leggere insieme, sarà proiettato, e dice questo. Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli. A chi? Ai fratelli. Quindi dov'è che stavano? In chiesa. Interessante come le eresie, no? Come i falsi insegnamenti si sviluppino. In chiesa. Insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Cioè, in altre parole, questi giudei, ai nuovi convertiti, gentili, che vedremo chi sono, stanno dicendo, hai sentito Paolo che cosa ti ha detto? Che basta che credi e sei salvato, basta credere in Gesù e tutto il tuo passato è come se non ci fosse mai stato? Non ti rallegrare più di tanto, perché la verità è questa. Se non sei circonciso, se non fai qualcosa, tu non puoi essere salvato. E siccome Paolo e Barnaba, che erano quelli che avevano predicato il Vangelo, l'abbiamo letto fino a ieri, no? In Atti 14, dissentivano, non erano d'accordo e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme, cioè andassero alla chiesa madre, va bene, alla chiesa matrice, dove è nato tutto. Perché qui a Gerusalemme c'erano gli apostoli e gli anziani, quindi tutta la leadership, tutte le autorità della Chiesa da allora, per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri. Chi sono questi stranieri? Sono proprio i gentili. E chi erano questi gentili? Erano tutte quelle persone che non facevano parte del popolo giudaico, che non erano giudei, che non facevano parte, che non discendevano dal popolo di Israele, no? Il popolo che Dio si era scelto dall'inizio dei tempi. Erano pagani, erano persone che vivevano abbracciando e praticando tutta la cultura greco-romana. Che significa? Che erano idolatri, quindi adoravano altri dei, vivevano una vita abbastanza immorale, erano, lo leggiamo, no? Nei Vangeli, anche l'abbiamo letto, no? Si facevano guidare da questi desideri carnali, insomma, facevano tutte le cose che i giudei non facevano e che effettivamente non erano secondo la volontà di Dio. Questi hanno sentito il Vangelo da Pietro, da Barnaba, da Paolo, essi sono convertiti, cioè hanno accettato il Vangelo abbandonando tutto quello che facevano prima. Non hanno più adorato altri dei, non si sono più dati a sacrifici e riti vari. No, hanno abbandonato tutta la vecchia vita e si sono convertiti al Vangelo perché avevano capito che Gesù era morto ed è risorto anche per loro. E non dovevano diventare giudei prima e poi credenti. No, potevano semplicemente credere e quindi di conseguenza essere salvati. E quindi vediamo, no, che Paolo e Barnaba stavano raccontando di tutte queste cose e alcuni, non tutti erano come i giudei e i farisei, alcuni erano proprio felici. Perché erano felici questi? Perché la Fenicia era abitata solo ed esclusivamente da questi gentili. La Samaria, i samaritani, erano considerati metà gentili, metà giudei, insomma, una razza a parte. E quindi il fatto che il Vangelo fosse arrivato a loro, per quelli del posto, non poteva essere che una grande gioia. O no? Mi seguite? E quindi erano tutti contenti. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono loro tutte le grandi cose che Dio aveva fatto in mezzo a loro. Io me li vedo qui, Paolo e Barnaba, avevano appena finito il loro primo viaggio missionario. Ok? Ne avevano passate di tutti i colori, erano sopravvissuti a prigionia, a lapidazioni, a non si capisce, a tutto erano sopravvissuti e il Vangelo era stato predicato. Io me li vedo tutti contenti, tutti entusiasti che raccontano di una scoperta che avevano fatto, e cioè che il Vangelo non era solo per un'elite di persone, non era solo per una speciale categoria eletta e scelta di persone. No, il Vangelo era per tutti e questi gentili erano aperti al Vangelo, lo stavano accettando. È un po' come se noi andiamo in quelle parti che noi pensiamo siano completamente chiuse al Vangelo, che tu dici: no, io manco ci provo a parlare a questo amico mio di Gesù, ma chi lo deve, mi manderà subito a quel paese? E poi parli e vedi che invece il tuo amico, che avevi sempre pensato del Vangelo non gliene importasse nulla, lo accetta, ha bisogno pure lui di Gesù. Guardate che bella scoperta. E quindi erano tutti contenti, era il Vangelo della grazia, no? Che Paolo stava predicando, era il sacrificio fatto una volta per tutte e per tutti, era il Vangelo che predicava che Gesù aveva pagato il prezzo. E quindi basta legge mosaica, basta circoncisione, basta sacrificio a destra e a sinistra, Gesù ha fatto tutto quello che era necessario fare per la salvezza di chiunque credesse in lui. erano gioiosi e la loro gioia in risposta trova non una reazione altrettanto entusiasta. In risposta, vediamo in capitolo, nel versetto 5, dice: ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, quindi questi erano credenti, si alzarono dicendo: Paolo, Barnaba, bisogna circonciderli. Cioè, tu mi puoi dire tutte le cose che vuoi, ma bisogna circonciderli, e adesso non solo circonciderli come prima, ma comandar loro di osservare tutta la legge di Mosè. Si era ad un tratto ingrandita la condizione. Perché questo? Perché che un pagano che fino al giorno prima adorava altri dei, viveva una vita immorale, per un pagano che lui potesse essere accettato da Dio, potesse essere accettato dalla Chiesa, potesse essere considerato come un giudeo, potesse essere considerato alla pari di questi farisei e di questi giudei, era proprio impossibile. Era incomprensibile ed era inaccettabile. E per noi questo forse è un po' più difficile da capire, però io sono stata a pensare, mica tanto purtroppo. Perché, come ho detto prima, sotto sotto, in alcune situazioni, e quando pensiamo a determinati tipi di persone, mi dà fastidio anche a parlare di categorie di persone perché non esistono, va bene, però per spiegarmi, quando pensiamo a persone con un passato particolare, con delle usanze particolari, con il colore della pelle diverso, noi ci sentiamo nel 2021 una spalla più alta. E questo non è accettabile, questo è proprio sbagliato, questo non è il Vangelo che Gesù Cristo è venuto a dare alla sua Chiesa. E quindi quando pensiamo per esempio agli omosessuali, ai travestiti, a tutte queste persone che le vediamo strane, sappiamo che hanno bisogno di Gesù, però creiamo distanza, sono troppo diversi e quindi sono troppo persi, sono troppo sporchi per Gesù. Se sentiamo questo nel nostro cuore, non sempre, non tutti i giorni, ma qualche volta, fermiamoci, parliamone con Dio, chiediamo perdono, perché forse come voglio dire, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci faccia rivedere delle cose, va bene? Forse chi si deve convertire veramente siamo noi. Se pensiamo questo, è vero? E quindi questi giudei li possiamo capire abbastanza bene. Questi giudei avevano ricevuto la legge, il patto, ok? Gesù, scusate, Dio aveva fatto un patto con gli antenati, i predecessori di questi giudei, anni e anni prima, nel Vecchio Testamento, aveva fatto un patto con loro e aveva reso questo gruppetto di persone il suo popolo. Cioè c'era una relazione preferenziale che Dio aveva con questo popolo, erano speciali, erano i cocchini di Dio, erano gli eletti. Quindi erano abituati anche a sentirsi privilegiati. E parte di questo patto era la legge, era la circoncisione. Dio aveva dato loro i 10 comandamenti e tutta la legge mosaica che abbiamo letto, ve lo ricordate, Esodo? E chi se lo scorda? Tutti quei capitoli. E perché? Per preservarli, per distinguerli dagli altri popoli, per distinguerli da quelli che erano i gentili del Vecchio Testamento, capite? E loro credevano in questo patto, cioè non è che lo facevano così tanto per fare, loro ci credevano sinceramente, e in virtù di questo patto che hanno mantenuto per anni, per secoli, tutte queste regole che definivano, regolavano la loro relazione con Dio, la loro relazione con gli altri, il loro lavoro, la loro famiglia, la loro vita sociale. Tu pensa a una cosa? C'era una legge. Pensa a una legge? C'era un sacrificio. Nel caso tu non dovessi, non fossi in grado di adempiere a quella legge. Era una vita abbastanza pesante, è vero? E adesso, di punto in bianco, il gentile se ne viene e dice al giudeo: ma tu lo sai che io credo in Dio? E tu lo sai che io sono stato salvato? Ma tu lo sai che io sono come te? Scusa? Cioè io per anni e anni e anni ho fatto questo, quest'altro, questo, e tu? Ma dall'oggi a domani? Capite perché era difficile? Era inaccettabile da parte di un giudeo tutta la situazione che stava succedendo, ma stava succedendo. Gesù era morto ed era resuscitato per la salvezza tanto dei giudei quanto dei greci, dei gentili. La sua grazia e il suo perdono erano a prescindere da ogni passato, da ogni background. E per quanto, ascoltatemi bene, per quanto questi sentimenti, i sentimenti dei giudei, fossero comprensibili, questo non li rendeva giusti. Perché la cosa può essere pure comprensibile, ma non è necessariamente giusta. Se va contro il Vangelo di Cristo, tu puoi avere tutte le ragioni che vuoi per pensare tutto quello che vuoi, ma ciò non lo rende giusto. Il metro di giudizio per capire quando la cosa è vera o non vera non è la tua opinione, non è la tua esperienza, non è quello che la massa pensa e dice, ma è la parola di Dio. Amen? Per questo è importante leggerla. E quindi questi dicevano: per diventare un credente tu devi diventare prima un giudeo. E questa era un'eresia vera e propria. Era un Vangelo perverso e corrotto, come lo definisce Paolo. E infatti Paolo, ai Galati, quando ha scritto la lettera ai Galati, è di questo fatto che stava parlando. E scrive proprio questo, leggiamolo. Galati 1:6, guardate le parole di Paolo, quanto era proprio... sì, preoccupato per questa questione che era importantissima. Dice alla Chiesa, e mi meraviglio, io me lo vedo proprio così, che dice, ma mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo ad un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, aggiunge. Però ci sono alcuni, chi sono questi alcuni? I giudei, i farisei, quelli di cui stiamo parlando, che vi turbano e vogliono sovvertire, vedete che parole forti, sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato noi, cioè il Vangelo di Cristo che è morto ed è risolto una volta per tutte e per tutti, sia anatema, sia maledetto, sia scomunicato. Come vi abbiamo già detto, dice Paolo, ve lo dico da capo, ve lo dico di nuovo. Se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Sono parole forti, perché è una questione importantissima. Il Vangelo di Cristo, ascoltatemi bene, è perfetto, è completo. Gesù ha compiuto sulla croce, per la quello che Dio, che Gesù ha fatto sulla croce per la salvezza di tutti, è completo e non c'è sacrificio che possa essere aggiunto, non c'è circoncisione che possa avvalorare quello che Gesù ha già fatto, non c'è opera, per quanto bella e nobile possa essere, che possa rendere più perfetto il sacrificio che Gesù ha fatto una volta per tutte e per tutti. I farisei stavano cercando di fare una cosa molto, molto, molto pericolosa e brutta. Stavano cercando di mischiare la grazia con la legge. Stavano cercando di aggiungere a un qualcosa di perfetto e completo un'altra cosa, di umano, di finito e soprattutto di passato e oltrepassato. Abbiamo cantato oggi, il velo è strappato. È vero? Gesù quel velo l'ha strappato. Perché? Perché con Lui la grazia, l'amore, il perdono, la salvezza non è più solo per chi è bravo, non è più solo per chi ha un determinato passato, ma è per tutti. E questi giudei stavano cercando di ricucirlo, questo velo. Non si può, non si fa. La fede è l'unica chiave d'accesso alla salvezza. Così come lo era per la Chiesa primitiva, lo è per noi. Non è, ascoltami bene, non è il battesimo in acqua che ti porta alla salvezza. Anche questo lo dovresti sapere molto bene. Non è il battesimo in acqua che ti porta alla salvezza. Non è la decima. Che se io do la decima, se io do l'offerta, allora quello sì che mi garantisce un posto preferenziale nelle grazie di Dio. Ma che Dio conosci? Non è quanto opere buone facciamo, quanto leggiamo, quanto serviamo la Chiesa, quanto facciamo a destra e a sinistra, che può definire il passaggio dalla vecchia vita, dalla morte eterna alla vita eterna con Gesù, alla salvezza. Non è questo, è solo ed esclusivamente se crediamo, per fede. È solo riconoscendo Gesù come figlio di Dio, riconoscendo che il suo sacrificio è stato fatto per i gentili, per i giudei, ed è stato fatto anche per i modugnesi, per i baresi, per i mottolesi, per chiunque. Gesù ha salvato Nicodemo, il dottore della legge, e Zaccheo, il primo dei ladri. Gesù ha salvato la donna dal flusso di sangue, è la donna che stava per essere lapidata perché commetteva adulterio. Gesù ha salvato me e te, che così tanto meritevoli non lo eravamo. E se ti senti meritevole, fermati e pensa da dove vieni. Pensa chi eri prima di Gesù. E davanti a questa verità non possiamo far altro che ringraziare, non possiamo far altro che adorare. E queste furono proprio, ho quasi finito, furono proprio le parole di Pietro, che dice così. Pietro, qua stanno litigando, Pietro si alza. Pietro è il mio preferito, non ci posso fare niente. Si alza e dice, fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri, i gentili, udissero la parola del Vangelo e credessero. E qui sta parlando in modo particolare di chi? Di Cornelio, in Atti 10. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Che sta dicendo Pietro? Se Dio ha riconosciuto questi stranieri come figli, ma perché la Chiesa non li deve riconoscere come fratelli? Questo sta dicendo, chiediamocelo. E Dio non fece alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Qua Pietro spiega come avviene la salvezza, come avviene la purificazione del cuore. Non è mediante nessun'altra cosa se non la fede, se non credere in Gesù. Se tu oggi stai sentendo di questo Gesù per la prima volta, io ti invito ad aprire il tuo cuore a Lui, a dirgli: Gesù, ma è vero tutto questo fatto? Perché se è vero, io voglio credere in te. Aiutami a credere in te. E poi Pietro qua dice una cosa importante. Dice, or dunque, a questi giudei, or dunque, ma perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo, un peso, che né i padri vostri e né voi, né noi, dice, giusto? Né noi, mi sono fatta prendere entusiasmo, siamo stati in grado di portare. Le parole sono forti, dice, fratelli, ma perché siete ipocriti? Cioè, ma perché? Perché volete rendere qualcosa di che volete rendere complicato quello che Gesù ha reso semplice? Ma perché? Che non siete stati in grado neanche voi di fare quello che state chiedendo a questi stranieri di fare? È un giogo troppo pesante, è un giogo che schiaccia quello della legge. Ma quel giogo è stato sostituito, è vero? Che cosa ha detto Gesù? Venite a me. Venite a me, non alla legge, non alle buone opere, non a nessun altro Dio se non me. Venite a me. La salvezza è solo in me che si trova. Voi tutti che siete stanchi e aggravati, voi tutti. L'invito è aperto a tutti. Il Vangelo è inclusivo. Non è mai stato d'élite. Voi tutti. Non c'è persona troppo distante. Non c'è persona troppo sporca. Non c'è persona troppo ribelle che non possa ricevere la salvezza. Tante volte sento persone che mi dicono, quando le invito in chiesa, dice, vabbè, se vengo io la chiesa chiude. Ma che significa? Ma che significa? Queste persone non conoscono Gesù. Per questo dicono questo. Perché è proprio per loro. E quindi proprio per ognuno di noi. Perché eravamo tutti quanti in quella condizione. Che Gesù, è proprio a noi che Gesù dice, venite a me. Voi tutti che siete stanchi e aggravati e io vi darò riposo. È un dono. Gesù non chiede niente, non chiede un, non dà un prezzo, perché il prezzo l'ha pagato lui. Tutto quello che si fa dopo, il battesimo, il servizio in chiesa, leggere, pregare, non è mai stata una condizione per ricevere questo dono, è e continuerà ad essere una semplice conseguenza, che io lo faccio perché amo Gesù. Io do la mia decima perché io amo Gesù, perché voglio essere ubbidiente. Io mi battezzo perché io amo Gesù, voglio essere ubbidiente alla sua parola, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un altro messaggio. Poi continua, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. La legge, le regole, le opere per arrivare a Gesù erano e continuano ad essere un peso troppo pesante, troppo insopportabile da portare. Per questo se ne è caricato Gesù. Allora la legge ha trovato ripetutamente gli uomini, alcuni, chi la seguiva, mancanti. La grazia ha trovato una volta e per tutte, tutti quanti, completi e perfetti. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. La legge ti porta a chiedere, ma io sono abbastanza, ma ho fatto abbastanza, ma è sufficiente? La grazia ci porta a capire che Gesù è abbastanza, che è Lui che ha fatto tutto. Questa è la buona notizia. Questo è il nostro Gesù. Allora, come si conclude questa lite? Perché qua stanno ancora litigando. Noi, la musica e tu, però qui stanno ancora litigando. Come si conclude? Questo è bellissimo. C'è un terzo personaggio che è Giacomo, che è Giacomo il fratello di Gesù, quello che ha scritto la lettera, che era il leader, va bene? Lì tutti quanti erano leader, ma Giacomo era l'autorità più alta. È come se la squadra pastorale si incontra per parlare di una questione e poi prende parola il pastore. Così era la situazione. E Pietro, Giacomo, aveva la responsabilità di trovare l'epilogo, la conclusione di questa, a questa questione. E la cosa più bella che fa Giacomo è che per trovare la soluzione si appella a un'autorità molto più alta della sua, cioè all'autorità della Bibbia, all'autorità delle scritture. Giacomo non dice, vabbè, ho sentito a destra e a sinistra, io penso che si debba fare così. No, la situazione era troppo importante. E noi, come ho detto prima, possiamo avere tante opinioni su questioni dottrinali, su questioni etiche, su questioni relazionali, divorzio sì, divorzio no, ma la verità, noi dobbiamo imparare a fare quello che ha fatto Giacomo, ad andare alle scritture, ad andare a vedere la Bibbia su questo fatto, che cosa mi dice? E se non ci riusciamo, chiediamo aiuto. Per questo siamo qui come chiesa, per aiutarci l'un l'altro. E quindi Giacomo si rifà ai profeti, e dice, tutto quello che sta succedendo, quello che ci ha detto Pietro, quello che Paolo sta predicando, i gentili che si stanno convertendo, non è nuovo. Era già stato detto, anni e anni fa, era già stato profetizzato. Dice proprio così, dice 14, fratelli, ascoltatemi. Simone, cioè Pietro, lo chiama con il suo nome giudaico, ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi fra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto, e qui cita Amos 9. Amos è veramente un libro della Bibbia. Non si sa mai, Vecchio Testamento, profeti minori. Dopo questo, dice Amos dice, dopo queste cose, riporta le parole di Dio, che dice, dopo queste cose, che cosa? Dopo che i giudei, che il popolo di Israele, che i vostri padri, che i vostri antecessori, che tanto state facendo di più, dopo che hanno rigettato il Messia e si sono prostituiti ad altre divinità, con il conseguente esilio, dopo queste cose, Dio dice, ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi. Che sta dicendo Dio? Dopo che mi avete rigettato, io farò una via di riconciliazione. Io restaurerò quello che si è distrutto e lo farò attraverso Gesù, che verrà come un servo umile, verrà e farà miracoli e farà prodigi e guarirà e libererà e poi alla fine morirà prendendo sulle sue spalle il peccato di tutti quanti, prendendo sulle sue spalle il giogo più pesante. Ma poi il terzo giorno lui risorgerà per la vittoria di tutti, per la salvezza di tutti, per il perdono di chiunque crede. Perché farò questa via di riconciliazione? Verso 17, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni, chi sono questi? Gentili 2000 anni fa e oggi siamo io e te, su cui è invocato il mio nome, cerchino il Signore. Così dice il Signore, che fa queste cose a lui note fin dall'eternità. Fa queste cose a lui note fin dall'eternità. Gesù aveva il tuo e il mio nome in mente sin dall'inizio dei tempi. È meraviglioso questo. Lui ha scelto Abramo e si è costituito il suo popolo che aveva il tuo nome in mente. Lui ha scelto Mosè e gli ha dato la legge e gli ha dati i 10 comandamenti che aveva me e te in mente, perché voleva arrivare a me e te. E quando parlava ai profeti della riconciliazione, in questa riconciliazione c'eravamo noi. Ecco che il Vangelo è arrivato fino all'estremità della terra e continuerà ad arrivare anche dove oggi ancora Gesù non è riconosciuto come unico e vero Dio. Il suo amore è sempre stato inclusivo. Allora, per chi conosce Gesù, io dico, se il suo amore è sempre stato inclusivo, non essere una chiesa esclusiva. Per chi invece Gesù non lo conosce, allora io ti dico che puoi trovare riposo in Gesù, che il suo giogo, il suo peso è dolce ed è leggero. Tu puoi fare a cambio, puoi dare a Gesù il peso del peccato, il peso della disubbidienza, il peso dell'indipendenza da Lui e fare cambio, ricevere la salvezza, ricevere la certezza della vita eterna, ricevere la certezza che in questa vita tu non sarai mai più solo, perché Gesù sarà con te. E noi fra un po' vivremo la cena del Signore e vorrei che la vivessimo proprio in prospettiva, alla luce di tutto quello che abbiamo ascoltato. Approcciati alla cena del Signore ringraziando della salvezza che tu hai ricevuto per grazia. Ricordati che non te la meritavi e ringrazia. Se non conosci Gesù, se non sei mai stato battezzato, e questa è una regola giusto interna nostra della Chiesa, non sprecare questo tempo, ma parla con Gesù e digli: ma queste parole che io ho ascoltato, ma sono vere, ma sono anche per me. E poi certamente ti sarà data l'opportunità di prendere una decisione per Gesù. Quindi Chiesa, vogliamo adesso alzarci, vogliamo pregare, vogliamo benedire il pane e il vino e avvicinarci per partecipare alla cena del Signore con rigore, con rispetto. Amen. Signore Gesù, grazie, perché se siamo qui e possiamo cantare che il tuo nome è meraviglioso e che tu hai vinto la morte e che tu hai strappato quel velo, se possiamo fare tutto questo è perché tu ti sei dato come sacrificio per noi. E per questo, Gesù, noi vogliamo continuare a ringraziarti e ad adorarti. E vogliamo vivere questo momento per ricordare ciò che tu hai fatto per noi e per impegnarci a vivere in maniera degna di quello che è stato il tuo sacrificio. Grazie Gesù, ti amiamo tanto. Amen.